Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Allora, vi siete ricordati che avevamo un appuntamento insieme? Buongiorno! Allora possiamo partire? Partiamo da una ricerca curiosa e soprattutto vivace. I colori possono influire sul nostro cervello. Il rosso aiuta a migliorare la concentrazione e la memoria, mentre il blu stimola la fantasia e in generale la creatività. Questa è la conclusione di uno studio condotto da un gruppo di ricercatori della University of British Columbia a Vancouver, in Canada. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Science. Allora, aggiungere un po' di colore alla nostra vita aiuta, perlomeno secondo la ricerca, aiuterebbe a snebbiare la mente, a renderla più attiva, vivace, ricettiva, creativa. Sono quasi tentata di ridipingere casa, ma prima di investire in colori e pennelli chiedo un parere al professor Massimiliano Oliveri, che è professore di neuroscienza all'Università di Palermo. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, che faccio? Mi butto? Ridipingiamo casa? Secondo me dipingere le pareti di casa può essere una buona idea in questa accezione, specie se si utilizzano colori primari come il rosso, il giallo, il blu e forme primarie come il quadrato e il cerchio, un po' come succede nei quadri di Mondrian e un po' come ho fatto a casa mia, per esempio. Questo perché i colori, come abbiamo sentito nell'introduzione, fanno risuonare nel cervello delle aree visive, naturalmente, ma anche il cosiddetto sistema nervoso vegetativo simpatico, sì. Con variazioni dei livelli di adrenalina. È vero dunque che il rosso, ma anche il giallo e l'arancione, sono colori attivanti a differenza di blu o verde. Ed è vero che questo può avere ripercussioni su funzioni cognitive come l'attenzione e la memoria, ma con alcune distinzioni che è utile fare, secondo sì. me. Quali? Nel senso che aumentare il livello di attivazione vegetativa in corrispondenza di uno stimolo a cui prestare attenzione o da memorizzare potenzia effettivamente l'attenzione e la memoria per quello stimolo, però è anche vero che questo interferisce con il contorno, quindi con gli stimoli che stanno intorno a quello a cui rivolgiamo la nostra attenzione. È un po' come l'effetto evidenziatore. Quando sottolineiamo delle parole in giallo o in rosso, in fase di lettura, aumenta l'attenzione verso quelle parole, però si riduce contemporaneamente l'attenzione e la capacità di memorizzare le altre parole che fanno da contorno. Quindi aiuta entro certi limiti. Sì. Effettivamente, per concentrarsi meglio e ottimizzare il ricordo, non è utile solo eccitare il cervello con colori attivanti, sì. ma è spesso più utile concentrarsi di meno, rilassarsi, diciamo così, tra virgolette, perché ciò consente di dimenticare gli stimoli irrilevanti, quelli distraenti. Professore, questo, ma lei queste cose le dice anche ai suoi studenti? Oh, assolutamente sì. Ok, allora sono contenta, mi piace. Grazie professore per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata. Concentrazione, ritmo e vitalità. Odio il pigiama e vedo rosso. Se la terra mi chiama non posso restare chiuso fra quattro mura. Ho premura di vivere e perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Trovare la concentrazione spesso è difficile, costa fatica, basta un non nulla per perderla. Tutti ne abbiamo bisogno, un'abilità che ci viene richiesta e considerata essenziale, ma che a mio parere non viene adeguatamente coltivata né insegnata. Non abbiate paura, lo faremo noi insieme oggi, insieme ai nostri ospiti, cercheremo di capire se ci sono momenti, attività, segreti per ottenerla, mantenerla e per farla rendere, ma anche, perché no, per ritrovarla anche in condizioni difficili. Quante volte perdiamo il filo del discorso o quante volte, interrotti da una telefonata, fatichiamo un po' a ritrovarci, a riprendere quello che stavamo facendo? Vi faccio una domanda, ma ditemi per favore che capita anche a voi e chiamatemi 800 24 00 24, ci terremo almeno un po' su di morale. Ma iniziamo da una domanda: c'è un momento della giornata in cui è più facile concentrarci, un momento in cui il nostro organismo sarebbe proprio per natura più facilitato a farlo e a ottenere buoni risultati. Anche la concentrazione, mi dico io, che la perdo spesso, avrà i suoi ritmi. E allora in linea con noi abbiamo il professor Roberto Manfredini, che è direttore della clinica medica all'azienda ospedaliera Università di Ferrara. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, come va questa concentrazione? Ha degli alti e dei bassi? Sì. Tutto nel nostro organismo ha degli alti e dei bassi, tutto è ritmico, e quando parliamo di ritmo giustamente vuol dire un alto e un basso, però sono diverse le performance di tipo mentale dell'individuo, quindi ci sono dei momenti in cui siamo avvantaggiati per certe cose o per altre. Facciamo qualche esempio. Per esempio, al massimo il nostro lavoro intellettuale, quando dobbiamo per esempio registrare delle informazioni, la memoria a breve termine, risolvere test aritmetici, andare a scuola, francamente, la mattina e anche una buona parte del pomeriggio sono eccellenti. Sì. Se invece dobbiamo fare, non so, dobbiamo essere veloci al tempo di reazione, allora l'ideale è la fascia di mezzo pomeriggio, quando si alza la temperatura corporea e la nostra conduttività dei nervi è più veloce. Sì. Invece per quello che riguarda la destrezza, per esempio, le attività molto fini, per esempio, non so, anche alcune attività sportive come il tiro con l'arco, dove bisogna essere sia precisi che atletici, la mattina. E qual è il momento peggiore? Il momento peggiore assolutamente è, da una parte, le ore della notte. Noi siamo infatti animali diurni. Infatti capitano, quindi, spesso incidenti in quelle verissimo. Ore. Dalle 2 alle 3 alle 4 di notte abbiamo i riflessi rallentati, la concentrazione nettamente diminuita, le performance cognitive sono diminuite, gli incidenti avvengono a quell'ora, i piloti di aereo nel simulatore fanno gli errori a quell'ora, le grandi catastrofe tipo Chernobyl, eccetera, di errore umano avvengono in quell'ora. Professor Manfredini, c'è un'ora in cui tutti noi avvertiamo una certa difficoltà a lavorare, a concentrarci, a rendere, ed è quella del primo pomeriggio. Spesso si dà la colpa al panino che mangiato di fretta, oppure, per chi può, al pasto un pochino più sostanzioso. C'è una relazione? È verissimo, è quello che, così, usando un termine inglese perché ormai va di moda, è il cosiddetto post lunch dip, cioè la caduta, il crollo delle nostre attività nel dopo pranzo. La cosa singolare è che sì, naturalmente è vero che se ho fatto una grande abbuffata poi mi viene la palpebra che cala, ma il fatto è che, studiandolo scientificamente, si vede che se anche la persona non ha abbuffato e magari ha mangiato semplicemente un'insalatina o quello che è, la ritmologia del nostro organismo fa sì che le ore circa fra l'una e mezza, le due e mezza siano francamente le ore peggiori. C'è un calo fisiologico anche se non ci siamo abbuffati. Quindi le migliori per fare una pennichella. Assolutamente sì. Che tra l'altro dormire un po' e dormire poi bene durante la notte aiuta anche a concentrarci meglio e aiuta anche a memorizzare. Professor Manfredini, grazie per essere stato con noi. Buona grazie giornata. Grazie a voi dell'invito. Arrivederci. Grazie. E io voglio salutare il nostro personal trainer di oggi, è Gianni Golfera, autore del grande libro della memoria, che sarà a nostra disposizione per aiutarci, per conoscere ritmi, tempi e segreti di questa abilità così importante. Gianni, bentornato, grazie. Grazie a voi, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Gianni, qual è il tuo segreto per concentrarti? Cosa fai? Il mio segreto per concentrarmi è usare le emozioni per concentrarmi, per essere più attivo, più creativo e anche ovviamente per ricordare di più. Se ad esempio voglio ricordare il nome di una persona e di una via, lo associo a qualcosa di familiare che mi rievoca una certa emozione. Ad esempio, quando devo dare consigli alle persone su come ricordare il mio cognome, e Golfera, dico loro di pensare a un'antica mazza da golf, o a quella volta in cui hanno giocato a golf con gli amici, o un vecchio golfino, insomma qualcosa che rievochi attraverso un'immagine visiva il cognome Golfera. Naturalmente il nostro cervello pensa per immagini e quindi si attiva una più vasta area cerebrale durante il processo di memorizzazione con questo semplice espediente che molto probabilmente molti di noi inconsciamente già utilizzano. Ma Gianni Golfera ci darà tante indicazioni nel corso della nostra trasmissione, quindi chiamateci 800 24 00 24. Voglio salutare il professor Gianluigi Lenzi, ordinario di neurologia all'Università della Sapienza di Roma, dove è anche direttore del Centro Studi Funzione Mentale. Professor Lenzi, buongiorno. Buongiorno signora, a lei e a tutti i radioascoltatori. Professore, si dice spremersi le meningi, ma cosa succede al nostro cervello quando ci concentriamo? A volte va in fumo. Ma non esattamente, diciamo che non c'è nessuna variazione di attività metabolica generale nel cervello fra il momento che siamo ad altissima concentrazione e il momento in cui invece guardiamo un orizzonte bello senza pensare assolutamente a nulla. Sì. Però certi punti del cervello funzionano di più quando noi cerchiamo a concentrarci. Questo non significa che c'è una spremitura, diciamo che c'è un afflusso maggiore di sangue nelle zone che in quel punto sono attive. Andiamo a Roma, c'è Emiliana all'800 24 0024. Buongiorno Emiliana. Buongiorno, io ho chiamato perché ho sempre avuto enorme difficoltà a studiare, proprio perché né riuscivo a concentrarmi né a ricordare quello che leggevo. E adesso ero piccola. Da quando era piccola, ma adesso crescendo la cosa è un po' migliorata oppure è proprio rimasta no, tale quale? Sempre faticosissimo. Allora, ho smesso di studiare, ma comunque ricordo che è sempre stato molto faticoso. Gianni, nei tuoi corsi proprio tu insegni il tuo metodo e sicuramente sarai venuto a contatto con persone che ti hanno raccontato storie molto simili a quelle che ci ha raccontato adesso Emiliana. Da che cosa le fai partire per sbloccare un po' questa sorta di paura, questo blocco? Beh, intanto bisogna fare una distinzione tra memoria e metodo per memorizzare, perché Sì. Spesso le persone non hanno un proprio metodo per memorizzare, seguono magari l'indicazione di una maestra che si è limitata a dire leggi, ripeti, che come si sa non produce un grande risultato, e poi si sono convinte di non avere memoria, cosa assolutamente non vera. In realtà tutti noi abbiamo una grande memoria, secondo la mia esperienza non ci sono significative differenze individuali. Quello che fa la differenza è il nostro modo di acquisire quell'informazione, quindi io ho la certezza che anche Emiliana che ci ascolta, provando ad acquisire l'informazione, cioè ad imparare la prima volta l'informazione in maniera qualitativamente migliore, ad esempio associando tra di loro i concetti chiave importanti all'interno del testo e ancora magari immaginando le varie parti del discorso all'interno delle varie stanze di casa, come facevano i romani una volta, Cicerone ad esempio. I famosi loci che davano ordine ai ricordi, alla memoria. Ecco che si accorge di avere una memoria migliore, aumenta l'autostima, aumenta la propria considerazione delle proprie capacità e improvvisamente, come per magia, torna alla memoria, ma la memoria c'è sempre stata. Professor Lenzi, vorrei un suo commento all'intervento costruttivo di Gianni. Gianni Golfera, è assolutamente giusto il teatro della memoria, però sottolineerei anche delle problematiche che vengono fuori nei bambini, proprio in come iniziano a leggere e a scrivere, Sì. Dovute a problematiche quali la dislessia. Sì. Sono piccoli bambini dove il disturbo non viene riconosciuto, rimangono indietro al resto della classe e si innesca un meccanismo perverso per cui loro si sforzano il doppio per raccogliere la metà rispetto ai bambini della loro stessa età. In famiglia vengono trattati male perché sembrano distratti e non si concentrano abbastanza, ma in realtà è un problema iniziale, non riescono a leggere. Io invito i miei ascoltatori che volessero approfondire questo tema ad andare nel nostro archivio insieme al professor Stella e ad altri esperti. Abbiamo dedicato delle puntate intere a questo problema, la dislessia. Intanto andiamo a Michele che ci chiama da Milano. Buongiorno Michele. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie, anche da parte loro. Grazie, molto gentili. Io volevo spiegare un po' quella che è la mia situazione, no? Sì. Io faccio l'autista, guido tutto il giorno, faccio circa 400 km al giorno, no? Sì. E ho una grandissima concentrazione per quanto concerne la guida, meno male. Eh sì, è fondamentale, è vitale direi. Meno male. Un'altra cosa, io faccio l'osservatore di una società professionistica di Serie A, per cui ricordo bene i giocatori visionati, cioè ho una grossa memoria di collaborazione, diciamo. Sì. Ecco, quello che non riesco un po' a capire, che mi suona un po' strano, finito di lavorare, cioè se mi relaziono con delle persone, parlo con delle persone, io parlo con molta gente, cioè riesco a ricordare, riesco a spiegarmi bene, riesco a fare un po' il tutto, no? Ecco, quando sono in fase di rilassamento, diciamo verso il fine lavoro, la sera, No? Se dovessi concentrarmi in qualcosa ho delle difficoltà. Ecco, io la passo subito al professor Lenzi. Professore, quando facciamo andare troppo la testa e che ci stanchiamo, arriva un momento, un po' come succede quando portiamo delle scarpe che non sono tanto comode, arriviamo a casa, le lasciamo andare, e così succede anche forse con la nostra concentrazione. Ma io direi a questo simpatico ascoltatore che ha chiamato, che fa l'autista, sì, che quando si accende la spia dell'olio conviene fermare la macchina. Mm. Perché è segno che l'abbiamo fatta girare troppo e non c'è più spazio nella memoria di lavoro per ulteriori dati. Non c'è niente da fare, la memoria di lavoro ha una certa capacità. Certo. Quando il contenitore da un litro è pieno non c'entra più nemmeno una goccia. Si è accesa la spia dell'olio, ci avverte il nostro organismo che dobbiamo fermarci, dobbiamo riposare, è inutile continuare. E questo funziona anche per chi deve memorizzare, deve studiare, tante volte una pausa serve, quando diciamo ho studiato, ho scritto tanto, non entra, non capisco più niente. Gianni, come facciamo proprio? È solo la stanchezza che ci avverte che abbiamo messo troppe informazioni, abbiamo impegnato troppo il nostro cervello, oppure ci sono degli altri segnali, tra virgolette, premonitori? Beh, intanto c'è sicuramente un calo di concentrazione, come quando si legge una pagina intera senza capire niente di quello che abbiamo appena letto e magari non si è stanchi, ma in qualche maniera si è distratti. Una cosa che spesso non si considera, gli studenti non considerano, è il fatto che la ricerca ci dice chiaramente che il nostro cervello ha dei limiti nella capacità di prestare attenzione, sembra che oltre i 40 minuti consecutivi sia molto difficile andare, e quindi sarebbe a mio avviso funzionale anche considerare l'idea invece di studiare a testa bassa per 4 ore consecutive, di fare 40 minuti, una pausa di 10 minuti, poi altri 40 minuti, in modo in maniera da fare uno studio qualitativamente superiore. Allora, l'invito ai nostri ascoltatori è di chiamarci 800 24 00 24. Come riuscite a concentrarvi? Ci sono persone che hanno bisogno del silenzio assoluto, altre invece che si concentrano più con la musica. Ho un messaggio sul nostro profilo Facebook di Giovanna che ci scrive: io riesco a concentrarmi solo quando ho tante cose da fare insieme, ho quasi una premura, una pressione, allora lì scatta qualche cosa e riesco veramente a concentrarmi e a rendere. 800 24 00 24 al professor Gianluigi Lenzi. Oh cavolo, dove ho messo le chiavi? Le hai in mano? Ah. Per l'appunto, perdere la concentrazione, il filo del discorso, avere dei temporanei vuoti di memoria, dimenticare appuntamenti, dati o nomi, le chiavi. C'è solo una persona che non si riconosce in queste situazioni e ce l'ho al telefono, ed è Gianni Golfera. Tutti gli altri sono invitati a chiamarci e a raccontarsi all'800 24 00 24. Professor Lenzi, ma con gli anni la nostra capacità di concentrazione e anche la nostra memoria spesso tende un po' a diminuire, insomma facciamo un pochino più di fatica. Ci sono degli studi che ci indicano delle strade, ad esempio anche dopo i 30 anni provare ogni tanto a ricordare, a memorizzare le targhe delle macchine, il numero dei cellulari eccetera, può essere utile? C'è una ginnastica mentale, una ginnastica che fa bene al nostro cervello? Sì, c'è una ginnastica mentale, e è proprio quella di esercitare il più possibile la memoria e le connessioni. Tutti i quiz, settimana enigmistica o cose similari, sono ad oggi la migliore ginnastica inventata dall'uomo nell'ultimo secolo. Gianni, poi tu hai dato come indicazione legare magari delle cose alle emozioni, oppure per ricordare dei nomi cercare di creare delle immagini. Quanto bisogna esercitarsi per avere dei risultati? Beh, ogni volta che si presenta l'occasione di dover memorizzare qualcosa ottenendone un vantaggio. In realtà il fatto di associare un'emozione a un'immagine è un sistema che crea nuove connessioni, perché è certamente più facile ricordare ad esempio il nome rosa associando l'immagine del fiore, la rosa, che crea nuove sinapsi, nuove connessioni, che non semplicemente ripetendosi mentalmente il nome tante volte, quindi io più che di un allenamento parlo di un uso della memoria, perché per qualche strana ragione le persone quando cominciano a dimenticare qualcosa o se dimenticano qualcosa, anziché impegnarsi per fare il contrario, quindi per usare la memoria, fanno di tutto per non usare la memoria, quindi iniziano a annotare tutto, delegare tutto all'agenda, scrivere tutto da qualche parte, usano quasi la memoria come una scusa per non rendere al massimo all'interno di quella che può essere anche la propria attività, ecco. Mi hai dato una bella indicazione, perché anch'io tendo a segnare per paura di dimenticarmi e poi magari lo segno da qualche parte e non mi ricordo più poi dove l'ho segnato, e allora sforzandomi poi ritrovo la memoria. Isabella da Parma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. La mia domanda riguarda questo. Io ho una memoria direi eccezionale nel ricordare le immagini. Sì. E quindi, ma sia la sintesi sia dettagli, sì, così come il senso dei libri, di quello che leggo, ma sono completamente deprivata della memoria di ricordare i nomi, le vie, i nomi degli attori, dei film, degli autori, non ricordo assolutamente, ma anche i nomi delle persone, questo a volte mi mette in difficoltà, sì, perché mi ricordo benissimo di loro, certo, ma non mi ricordo come chiamarli. Ecco, questo mi provoca. E quindi si va di carissimo, che piacere vederti, Isabella. Sì, si trovano, ecco, delle escamotage. Professor Lenzi, perché ci sono, sembra che ci siano diversi tipi di memoria, c'è chi riesce a ricordare i nomi e non le immagini, o come Isabella, al contrario, come mai? Perché ogni persona sviluppa la sua propria strategia della memoria, che è quella che prima Gianni Golfera indicava proprio nel teatro della memoria, la memoria degli antichi, che avevano capacità prodigiose di memoria perché non esisteva ancora la scrittura, quindi tutto era affidato alla memoria e a strategie di memoria. A seconda di come il cervello si forma proprio nei primissimi mesi di vita e quindi le connessioni dinamiche fra le diverse regioni del cervello, ogni individuo seleziona la sua strategia di memorizzazione. Però poi si può anche così lavorare, come insegna Gianni Golfera nei suoi corsi, e trovare, allargare un po' lo spazio, far diventare questo teatro sempre più ricco, più grande, vero Gianni? Sì, assolutamente, nel senso che nella domanda posta dall'ascoltatrice di prima, sì, si vince una strategia, nel senso che quando mi dicono io ricordo perfettamente le immagini ma non ricordo i nomi, e io rispondo, ma cosa aspetti allora ad associare il nome ad un'immagine visiva? Certo, perché sembra così semplice e lì dobbiamo solo farlo. In effetti è semplice, è una questione di abitudine in gran parte. È vero, gli antichi certamente non avevano il sussidio cartaceo, avevano difficoltà a trovare la possibilità di scrivere, quindi erano facilitati, ma è anche vero che la cultura greca e quella romana in seguito davano una grande importanza al processo di memorizzazione e insegnavano già ai bambini ad associare ad immagini visive ciò che si voleva ricordare, perché di fatto la memoria funziona per immagini, c'è una grande predisposizione a ricordare le immagini più che i concetti astratti, ma nel momento in cui noi trasformiamo in un'immagine visiva un concetto astratto, ad esempio per ricordare il termine paralipomeni, possiamo pensare a un paracadutista, ecco che si attivano nuove connessioni e diventa più facile poi ricordare anche il concetto astratto. Senti Gianni, scusa, è una domanda, tu fumi? Io non fumo, sono un salutista. Quindi... Sai perché? Te lo chiedo perché molti di noi per concentrarsi, e me lo stanno anche scrivendo, accendono la sigaretta quasi a cercare un po' l'illuminazione. Bene, forse è meglio cercare qualcosa di più efficace e meno dannoso. C'è uno studio della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste che lo dimostra e lo pubblica in una prestigiosa rivista scientifica. Poche boccate di fumo riducono la capacità di prestare attenzione. La nicotina, componente attiva del tabacco, altera la capacità dei neuroni di comunicare tra loro e di elaborare le informazioni, con conseguente riduzione della nostra capacità di prestare attenzione. In particolare, gli scienziati della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste hanno dimostrato che una piccola quantità di nicotina, quella presente nel sangue dopo aver fumato due sigarette, è in grado di inibire il funzionamento degli interneuroni dell'ippocampo, regione del cervello essenziale per l'apprendimento e la memoria, alterando le nostre funzioni cognitive. Gli interneuroni sono neuroni che fanno sinapsi con altri neuroni e formano circuiti locali. Modulando l'impulso nervoso, regolano l'azione delle cellule principali affinché riescano a gestire gli impulsi sensoriali. Fumatori, dunque, siete avvertiti. Le bionde riducono le vostre funzioni cognitive, alterando la ritmogenesi, che è di cruciale importanza per l'elaborazione delle informazioni nel cervello. Allora, da Bruna posso dire, da Mora, le bionde distraggono, professor Lenzi, e quindi è la gestualità forse che ci aiuta a concentrarci? La gestualità fa senz'altro parte di un rituale che aiuta a concentrarsi. Io devo dire che preferisco leggere meglio questo articolo del Journal of Neuroscience, perché non sempre quello che viene pubblicato anche in una prestigiosa rivista poi corrisponde nella realtà o viene confermato da studi successivi. Molte persone, fumatori, io sono un ex fumatore pentito, in realtà raccontano di una maggiore concentrazione durante o dopo la pausa della sigaretta. Certo, io non invoglierei a fumare per aumentare la nostra capacità di concentrazione, ma questo discorso sulla ritmogenesi mi lascia, diciamo, un attimino perplesso. Insomma, i lavori in corso, possiamo dire così. D'altra parte la ricerca fa questo, no? Mette degli spunti e poi si ha il tempo per rielaborarli. Mi è sembrata però arriva da una scuola molto prestigiosa e quindi ero contenta di dare questa indicazione fresca fresca ai miei ascoltatori. Un invito magari per non accendere quella sigaretta in più o magari un invito a smettere. Vorrei delle risposte per i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666. Ad esempio Manuela da Cuneo ci scrive: come mai ricordo targhe e numeri di telefono e non ricordo cosa devo fare domani? Gianni? Probabilmente una memoria musicale che la porta a ricordare targhe e numeri di telefono, perché se non si associano quei numeri ad una data importante, quindi attraverso il coinvolgimento emotivo che io suggerisco, si tendono a ricordare per la loro musicalità, cioè per un po' come quando fanno le varie pubblicità di numeri da chiamare, sfruttano il suono dei numeri. E invece cosa si deve fare domani? Probabilmente non lo si ricorda spesso per distrazione, non tanto per una carenza di memoria. Quindi spesso si tende a confondere la mancanza di attenzione con la mancanza di memoria. Certamente attenzione e memoria viaggiano in parallelo, ma non sono la stessa cosa. Il cervello è la chiave di volta del nostro sistema, è teatro proprio dell'intelligenza e del piacere, della creatività, teniamolo da conto. Il cervello è la chiave di volta di tutto l'organismo umano, non solo dell'intelligenza, della concentrazione, quindi va veramente tenuto di conto. Se noi siamo felici, tutto l'organismo funziona bene, se siamo infelici vengono fuori le malattie organiche, tumoracci spaventosi, le allergie, eccetera. Quindi la felicità che risiede nel cervello è un must verso il quale tutti dovremmo cercare di lottare in quella direzione. Dino, buongiorno, da Venezia. Venezia, no. Venezia? No, terraferma. Terraferma, così dite voi. Sì, esatto. Dino. Senta, allora io vorrei spostare l'età della discussione portando il problema della concentrazione sui ragazzi. Bravo. Io come attività promozionale extrascolastica mi sto impegnando a insegnare la dama, il gioco della dama nelle scuole. Sì. E sto proprio tornando da una lezione tenuta in una classe. Mm. Il mio problema è questo. Allora, mentre nelle elementari riesco a ottenere la concentrazione dei ragazzi, sì, su quello che io dico, sulle regolette, eccetera, eccetera, nelle medie purtroppo questo è molto difficile. Capisco l'età, capisco tutto, gli ormoni che entrano in gioco, E quindi vorrei chiedere ai suoi ospiti un'indicazione per un caso, per un caso difficile. Siamo con ragazzini nella prima adolescenza. Gianni, darebbero del filo da torcere anche a te? Beh, sicuramente darebbero del filo da torcere a tutti. Però credo che la strada sia quella di, almeno questo è il sistema che ho usato sempre con i ragazzi che sì. ho avuto di seguire, soprattutto quelli un po' più vivaci, quello di coinvolgerli attivamente, di responsabilizzarli, cioè di dirgli ad esempio ma se lo volete fare lo facciamo, se no possiamo anche non farlo, dipende da voi, in modo in maniera da fargli assumere un impegno, perché io credo che i ragazzi in realtà abbiano enormi potenzialità, capacità che a volte noi non stimiamo sufficientemente, forse a volte ignoriamo il fatto che per loro l'attenzione può essere magari più alta ma per un tempo più ristretto, e quindi cercare di rendere tutto in qualche maniera coinvolgente, divertente, cercando di renderli parte attiva, ecco questo io farei. Sì, perché non amano essere spettatori ma essere attori. Abbiamo parlato del nostro cervello, bisogna mantenerlo assolutamente sano, prendersi cura di lui, ma il cervello per funzionare bene deve anche nutrirsi bene. In linea con noi abbiamo la dottoressa Paola Reverso, buongiorno dottoressa. Buongiorno Nicoletta, buongiorno medico, a tutti. Medico, nutrizionista e presidente dell'associazione Il Me Più Te, che è proprio un'associazione che si occupa di medicina preventiva, giusto? Giusto, e di benessere. E di benessere, nel senso più ampio del termine. Dottoressa Reverso, allora, Gianni Golfera non ci vuole svelare la dieta, che cosa mangiava da piccolo, ma insomma lo scopriremo, magari poi una volta ci racconta. Ma che cosa bisogna, che cosa aiuta il nostro cervello a funzionare bene? Che spesa facciamo? Rapidamente. Rapidamente, allora compriamo del pane di segale, possibilmente integrale, compriamo della buona pasta italiana, sì. dei cereali in chicchi, e lì possiamo veramente sbizzarrirci, dei legumi che fanno sempre parte della nostra tradizione mediterranea, certo. e poi del pesce azzurro, anche qui è sempre dieta mediterranea, frutta secca, semi oleosi, quindi semi di girasole, di zucca, di lino, e poi anche germe di grano, uova, crescione, spinaci, porri, quindi tutte le verdure che questa stagione invernale ci offre, frutta fresca, quella che possiamo, quella che troviamo, siamo in inverno, quindi parliamo della frutta della nostra, di questa stagione, e poi soprattutto ricordiamoci, non troppa fretta nel fare la spesa, guardiamo la provenienza delle materie prime, perché il cervello ha bisogno anche lui di vitamine, sali minerali, oltre che di zuccheri, di proteine e di acidi, tra cui di acidi grassi, tra cui gli acidi grassi omega 3 e omega 6 che appunto si trovano nel pesce azzurro e nei semi oleosi. Quindi guardiamo la provenienza, perché è importante, perché le vitamine, soprattutto quelle idrosolubili, sono molto sensibili all'ossidazione, quindi se un frutto, una verdura viaggia per molti chilometri, di conseguenza avrà un apporto di sostanze, di vitamine e di minerali inferiore rispetto a quello che noi possiamo trovare che proviene dal nostro territorio. Quindi una spesa intelligente aiuta a portare in tavola degli alimenti che fanno bene al nostro cervello, e se il nostro cervello sta bene, come ci diceva il professor Lenzi, stiamo bene noi. E in chiusura, a proposito di memoria, ricordate che domani tornano in più di 2000 piazze italiane le arance della salute dell'AIRC, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Questa è una buona occasione per sostenere la ricerca, ma anche per pensare, fare qualcosa di buono per la nostra salute. Non è un caso, infatti, che l'AIRC abbia scelto come testimonial, tra virgolette, del suo messaggio proprio queste agrume. La ricerca lo conferma, e in linea con noi abbiamo il grande piacere di avere il professor Alberto Mantovani, che è direttore scientifico dell'Istituto Scientifico Humanitas di Rozzano e docente all'Università di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Arance per fare il pieno di salute, arance per sostenere la ricerca. Che cosa ha di particolare questo frutto? Beh, questo frutto è ricco di antociani che sappiamo hanno un effetto protettivo su molti tumori, sul rischio di alcuni tumori, in particolare del grosso intestino. ma io credo che la giornata delle arance ci ricorda più in generale di stare attenti a quello che mangiamo e a quanto mangiamo in relazione al rischio di cancro. Quindi mangiare cose buone, ma soprattutto salutari, fare seguire la nostra dieta mediterranea, professor Mantovani? Perché mangiare... l'obesità provoca una sorta di infiammazione che ci espone ad un rischio, è questo? Assolutamente. Da molto tempo sappiamo che l'obesità è un fattore di rischio per molti tumori. Pensavamo che questo dipendesse dagli ormoni, abbiamo scoperto che questo dipende anche dal fatto che l'obesità ci mette in una situazione pro-infiammatoria, è un po' come se desse benzina al cancro. Quindi mantenere il peso forma con attività fisica, con una dieta equilibrata, questa è la ricetta e questo è l'impegno, è anche il messaggio delle arance della salute dell'Archi in più di 2000 piazze. Io saluto i miei ospiti e quindi saluto il professor Alberto Mantovani, grazie professore. Grazie a voi. Il professor Lenzi, la dottoressa Reverso, l'amica Gianni Golfera, grazie. Abbiamo fatto una bella squadra, siamo stati bene. Vi saluto di cuore e saluto anche i miei ascoltatori a cui chiedo di ricordarsi che abbiamo il profilo Facebook e che lunedì io sono qua ad aspettarli. Ricordatevi, abbiamo dato anche tutti i consigli di Gianni Golfera e i contributi del professor Lenzi, quindi vi aspetto. Buona giornata.